Signore artista, mi è interrotto la funzione! Com'è che faceva? Come faceva il sindaco? Non faceva? Allora, signore artista, mi è interrotto la funzione, sono pregato! Lo fai uguale, lo fai. Come faceva? Ho fatto, Carmi, non facciamo i pagliacci. Allora, signore artista, mi è interrotto la funzione, ma... Lo fai uguale, lo fai. Allora, da anni e anni per diventare una linea da musicare, un sindaco di paese dell'artista, artista. Il sindaco c'è anche il parroco, e pone Don Camillo da parte. Se gli hai detto? In realtà gli hai detto quando Don Camillo? No, gli ho fatto così per fare una battuta. Gli hai detto a loro? No, non ho detto niente. No. No. Gli ho fatto per fare una battuta. Come gli hai detto a loro? Quando Don Camillo adesso ho detto a te per fare una battuta. Solo Don Camillo. Posso permettermi di fare un piccolo, nel senso che tu a volte dici delle cose che poi non ti ricordi che hai detto, magari che ti è scappato. Solo Don Camillo, no? Cioè no, adesso non ho detto niente. No, adesso prima no. No, prima non ho detto niente, poi sei dovuto dire uscire, ho detto signor artista, due anni e magari. Nessuna piccola allusione al non Papa. Non ho nessuna allusione. Potere del niente, niente, niente. Io non gli ho detto niente. Non gli ho detto niente. Vabbè, però non gli ho detto niente. Niente, niente. Niente, niente. Un paese talmente assurdo. Noi ci siamo fatti tutti i paesini della zona, uno a uno, ma questo paese qua è veramente assurdo, guarda. Sì, io dicevo l'Italia. Ah, l'Italia. Non è assurda l'Italia. Perché tu sostieni che l'Italia è bella, ma l'Italia è bella, è bellissima, sono assurde magari la Scandinavia, la Svizzera, non lo so, io non sono mai stato, non paesi, non ho fatto una visita. Ti fidi un po' di me? Che? Vabbè, allora l'Italia c'ha i loro problemi. L'Italia c'ha i loro problemi? Non sei quello che scrive, è lo scrittore. L'Italia c'ha i loro problemi. Vuoi venirmi a insegnare italiano? No, vieni, avanti, insegnami l'italiano. Ti ha studiato l'italiano per strada, no, non ti insegno proprio niente, non spendiamo niente. L'Italia c'ha i loro problemi, allora, a parte che l'Italia c'ha i loro problemi, si può dire. Dobbiamo entrare nell'argomento, ci si può dire. Si può dire. Può dire assolutamente, se tu immagini che c'è un gruppo di persone che sono loro, identifichiamo come loro, l'Italia c'è il mondo, si può dire, anzi, è bellissimo, è anche un senso recondito e basta fare dell'ironia. Certo, certo. No, l'Italia c'è il loro problema. Come dice? Se gli italiano, un carnefice, dai, piacere. Ha Augusto Pomidoro. Di questa cosa sia in questa direzione, diciamocelo, perché io non ho molta voglia di perdere tempo. Cioè, è un problema di loro. Allora, diciamo, siccome sappiamo entrambi che tu nel passato hai avuto qualche problema, con le cose, con la giustizia. Ma perché devi dire queste cose? Tu sei pettegolo, vai a mettere queste voci in giro, non è vero! Siamo io e te! Non è vero, non è vero! Non è vero, non è vero. Allora Carmi, tu hai avuto i problemi. Io non ho avuto nessun problema. No, non hai avuto nessun problema. Ma poi non c'entra niente questa cosa. Non c'entra niente. Allora, siamo qua, non sappiamo perché. Metti che il sindaco ha visto negli archivi che tu avevi dei problemini. Ma che gliene frega un sindaco di paese di me di te? Chi ne frega se poi lo vede che uno di voi ha dei problemini? Signor ispettore, questa sua ipotesi non sta in piedi. Comunque Carmi, tu il problema è allora, ho trovato una soluzione, è come dici, cioè io ho dei problemini e stiamo qua per no, e io non la vedo così, no, io sì, ho dei problemini e stiamo qua per questo, no, avevo risolto, certo, no, io ho dei problemini e stiamo qua perché io ho avuto dei problemini, è per questo che stiamo qua. Vabbè, se non si può parlare, no, parliamo. Non hai avuto i problemi? C'ho dei problemi, va bene. Però perché siamo qua? Perché io ho avuto i problemi. No, perché siamo qua? Perché io ho avuto i problemi. E mo? Potresti evitare. Potresti evitare, per piacere? Che sto facendo? Sto facendo. Non sto facendo allora, Carmine, tu non hai il controllo di quello che tu fai. quel tuo corpo. Va bene, finisce mai il controllo. Allora, adesso stai facendo vabbè, vabbè, prima l'hai fatto perché torniamo a noi. Due volte l'ho fatto, due volte. Ma te l'ho fatto, tu non l'hai fatto, ti ho visto. E certo che mi sono girato, io mentre lei... E quando lei, ti devi guardare le mani, non devi mettere le mani. Ma tu devi stare attento a chi resta. Ma no, tu vuoi fare molto, non fai fare allora. Ma che piacere, Carlo. Perché tu fa un monologo. Ho fatto due volte. Due volte. Oh, il problema di quel monologo lo sappiamo, ma qual è il problema di quel monologo? Lo sappiamo, io prendo un tono calante. Tono calante, sì. Questa è una reazione al tono calante. Vai, vai! Mi permetto di chiedere se per favore potresti evitare di fare pum pum pum pum pum mentre recita. Posso, ma anche perché tra l'altro oggi non stava venendo così male. No, non stava venendo male, poi ho fatto così e ho rovinato tutto. Dopo, l'hai rovinato tutto dopo. Ah, dopo, alla fine. Tante volte abbiamo parlato, c'è un momento nello spettacolo, non c'è bisogno di un po' di silenzio, un po' di raccoglimento, un po' di concentrazione, un po' di il mio monologo finale, mi volto un attimo, lo sentite guardare il pubblico, guardare il pubblico negli occhi, facevi sguardi ammiccanti, facevi delle cose con gli occhi allo strano, facevi... Io guardo, pure io guardo avanti, no, guardavi negli occhi le persone, facevi anche dei ma cenni, no, guardo avanti, no, guardavi le persone, ma no, guardo avanti, vabbè, guarda la sera e poi faccio così. Non guardiamo più il pubblico? No, possibilmente non, no. Non guardiamo più. Non guardiamo più. Non guardiamo, nel braccio è avanti. Guardiamo più. E comunque, Carmine, vabbè, per chiudere questa pietosa parentesi. Allora, stavo facendo lo spettacolo. È uscito il parroco, è uscito il sindaco, sono passati davanti a te, allora c'è stato, fammi parlare, uno scambio di due battute, non so che cosa gli hai detto e siamo qua. Allora innanzitutto cominciamo a dire questa cosa. Allora, a proposito di pubblico questo, sì. A proposito di pubblico, sì. Allora noi facciamo lo spettacolo in questo paesino di 500 abitanti più o meno, no? Allora tu scegli che lo facciamo sul sagrato della parrocchia, della chiesa. Io non scelgo niente, Carmine, è l'amministrazione comunale che deve mandare. Allora noi lo facciamo sul sagrato della parrocchia. Sì, la facciamo sul sagrato. Davanti a noi abbiamo 10-11 spettatori. Un po' di più, 20. E a un certo punto ci rendiamo conto che alle nostre spalle, cioè dalla chiesa, escono prima il sindaco, poi il parroco, e poi esce il resto del paese. Sì, e allora? E il pubblico è meglio averci davanti che averci qui. Questa è una scoperta. E non tanto che avere davanti. Questo perché uno dei due, in questo caso a te, spetta di verificare che nell'area in cui facciamo lo spettacolo non ci siano altre cose in corso. Nell'area dove facciamo lo spettacolo? E il pubblico ce l'abbiamo dietro! Che cosa c'entra quello che abbiamo dietro? Non è l'area dove recitiamo, ma come fare? Una volta è il porchettaro, un'altra volta è il pubblico dietro, due indizi fanno una prova. Non facciamo il porchettaro, era nell'area dove recitavamo, era mia responsabilità. E anche questa responsabilità. No! Questa volta mi dico poi, il porchettaro era colpa mia, questa volta poi lasciamo stare con tutto il fatto. Io ho salvato lo spettacolo, se guarda il mio monologo, certo. Piazza Porchetta e Salsiccia, io dico che posso fare signore della corte, il pubblico si fa una risata, dice il meccanismo del teatro, salvato lo spettacolo. È una risata di commiserazione. Ma questo non lo capisci tu, perché si fa una risata pena per noi. È una risata complice. Ma non è complice. Sì, è complice quella risata. Capisco il meccanismo. E le penso sì, perché sono io sono disarmato. No, Se uno pensa che salva lo spettacolo per fare lo sketch col portiere. Chiudiamo qui questa. Cioè, stavo dicendo, oggi, quello che è successo oggi, stiamo al presente. Basta il palco, ti dici due cose e siamo qua. No, cosa gli hai detto? Io non lo so, serio. Io non gli ho detto niente. Lui stava facendo lo spettacolo, è uscito il sindaco, poi è uscito il parroco, poi sono usciti tutti quanti, e il sindaco ci ha detto: i signori artisti hanno interrotto la funzione. Io ho detto artisti a chi? Noi siamo due cani. Vabbè, evidentemente due cani, lo hai scandito perché sennò lui non capiva. Io ti vorrei segnalare che io ho un tono poggiato naturale, non ho bisogno di scandito. Buonasera, sì, siamo noi, infatti. Certo. Allora, persona si chiama Carmine Faccetta. Esatto. Io sono Augusto Pomidoro. Sì, con la O, Pomidoro. No, Pomidoro. E guardi, allora, né singolare né plurale, Pomidoro, come sacchi a pelo. Allora, non mi dica. No, guardi, allora, questa cosa della frase sconveniente, veramente, non abbiamo detto questa frase sconveniente, non veramente, non ma no. Pronto? Buonasera. Allora, noi stiamo facendo lo spettacolo sul sagrato della parrocchia, della chiesa, esce prima il sindaco, poi il parroco, poi escono tutti quanti, e il sindaco ci dice: i signori artisti hanno interrotto la funzione. Io dico artisti a chi noi siamo due cani. Due cani, in gergo teatrale, significa due attori molto scarsi, che siamo noi. No, no, proprio due cani, ti dico proprio esattamente. No, io uso dire questa cosa di due cani, io ti dico sempre appunto, ti devi rassegnare, siamo due cani, due cani, due cani! Evidentemente il problema è stato prima, evidentemente, e il nostro spettacolo che presentava in serie dei problemi intrinseci è andato a toccare evidentemente dei punti nevralgici che hanno scosso le coscienze e tutto qua, cioè evidentemente, come spiegare, nella storia del teatro, no? Tutti quelli che hanno sempre provato a fare un teatro impegnato, un teatro che c'è di toccare questa cosa che dici? Come si chiama? Ecco, quelli che hanno fatto nella storia del teatro un teatro impegnato. Io ti facciamo. Facciamo il teatro impegnato. No, guarda, noi facciamo cabaret. Ma tu sei proprio un nuccolone. Ma tu vuoi sapere il teatro che facciamo noi? Allora, la gente stanno tutti male, stanno tutti senza una vita. Poi vedono noi due che stiamo molto peggio di loro. Si compenetrano, si chiedesimo, succede la catarsi, ci ridono dietro e tornano a casa contenti. E poi vedono che è impegnato. Perché non ti invicchi quando vieni a casa? Ma invicchiati tanti! Capisci che se noi facevamo il cabaret noi stavamo una cosa impegnata, stavamo a cena col sindaco, e noi siamo qua perché facciamo il teatro impegnato, siamo qua perché facciamo il teatro impregnato. A me spiace per te che non ci arrivi, perché tu capisci che noi il nostro teatro tiene delle reazioni, muore o cattivo, ma delle reazioni, questo ci toglie da quella schifosa mediocrità in cui siamo, ci mette alla testa di artisti di un certo rango, e nella storia del teatro hanno sempre trovato. Allora, noi volevamo fare il cabaret, però c'è uscito il teatro di me. Pronto? Sì, guardi, buonasera. Allora, Emilia. Cioè, in che senso? Allora, qui dice, ma guardi, adesso va bene tutto, però ci sono dei livelli minimi di dignità. No, capì? Pronto? Pronto? Non mi capaci. Capisco che bisogna avere queste persone. Assurdo. Cosa voglio dire? Adesso basta, c'è il limite. Ma che stai facendo, Augusto? Come ci hanno visto fare lo spettacolo? Lo spettacolo, così è il titolo puramente onorifico. Il titolo puramente onorifico. Allora, sì. Ci hanno visto fare lo spettacolo. Tu fai. No, no, io non sono d'accordo. Però... No, io neanche io sono d'accordo. E non ci sono le condizioni. No, secondo me è quello che infatti sentito. Non facciamo proprio niente. Ho detto no, che ci sono le condizioni. No, non facciamo, io non faccio però proprio niente. Però decidiamo assieme. No. Non faccio proprio niente. Però vediamo un attimo. Nel senso che vedi, io mi fumo una sigaretta, dai. Non me l'hanno proposto. No, io scelto. Mi fumo una sigaretta. Poi no, tu non ti fumi la sigaretta. No, io mi fumo una sigaretta. No, perché cioè, siamo io, dobbiamo dividere la sigaretta. Devo pensare, però il 4%. Io non faccio niente. Cosa ti dico? Non lo so. Non ci sono le condizioni. Non ci sono le condizioni. Pronto. Sì, e sono sempre Augusto, buonasera. Senta, guardi, io mi stavo confrontando con il mio collega su questa questione, però sinceramente ci sembra che non ci siano le condizioni. Pronto? Pronto? Pronto? Senti un altro suono. Pronto? Pronto? ogni buona sacca. No, io non amo il governo di questo paese. Io non ho mai lanciato bombe. Io non credo alle bombe, io credo nell'anarchia. Anarchia significa libertà, abolizione della società divisa in classi, rispetto degli altri. E se è calma, serena, onesta, naturale, vivida, fatta di fango e di cielo al tempo stesso, ha la bellezza di una donna, è austera, fatale, intrepida, eroica, generosa, implacabile, dibattito aperto a tutti, ingresso libero, portate anche le signore. Firmato Bartolomeo Manzetti. Bartolomeo Manzetti, detto Barbabella, firmato nel 1888, Villa Falletti in Piemonte, dalla famiglia contadina. Ho cominciato a lavorare a 13 anni, sono fornaio, ho lavorato lì 3 anni, dalle 8 di mattina alle 22, tutti i giorni. Poi mi sono spostato a Cavour, dove ho preso impiego presso un pasticcere, il signor Goitre. Il signor Goitre sono rimasto 3 anni. E poi dovete tornare a Villa Falletto, dove mancavo ormai da 6 anni, perché si era ammalata mia madre. Un mese dopo che tornai mia madre morì, mi ricordo che fui io a deporre il corpo nella mare, io a gettare la prima manciata di terra. Normale, così perché seppellivo una parte di me. Pochi mesi dopo la morte di mia madre, decisi di partire per l'America. Allora avevo 20 anni. E arrivai in America, ero cresciuto in mezzo a gente che mi capiva. E lì, improvviso, mi trovai tra persone per le quali le mie parole valevano quanto le grida inarticolate di un animale. Allora, dove andare? Cosa fare? La ferrovia sopraelevata mi passava in testa, non dava risposte. E così, i primi mesi, insomma, feci tutti i tipi di lavori, dormì dappertutto, spesso per strada. Così, fino a quando nel 1917 decisi di prendere il mio carretto per il pesce, che non volevo più dipendere da nessuno. E quello è stato il lavoro che poi ho tenuto dal 17 fino al momento dell'arresto. Nel 17, sì, sono andato in Messico. Sì, allora dal Messico poi sono tornato in America perché in Messico non riuscivo a fare il mio mestiere. Facevo qualsiasi lavoro. Io sono un operaio specializzato. Sì, sono andato via dall'America perché non volevo fare il soldato per questo paese. Ma quali dollari c'è in Messico? Ma io lo amo questo paese. Come ha detto Nicola, ci siamo conosciuti nel 17. Insieme siamo partiti per il Messico, insieme siamo tornati dal Messico, insieme abbiamo cominciato a frequentare i circoli anarchici, non so, giusto. E parentesi, per capire come eravamo ingenui, no? Come ha detto Nicola, siamo scappati in Messico per non fare il militare in questo paese. E neanche sapevamo che, essendo noi immigrati, non potevamo essere chiamati a fare il militare. Quindi siamo scappati, in preda al panico, da una cosa che non ci poteva succedere. E non ho problemi a livello. Mattina dell'arresto alla stazione di polizia di Brocco non mi dito. Non mi dito perché avevo paura. Signor procuratore, lei lo sa che cosa facevamo quella sera di Nicola? Andavamo a casa di alcuni compagni a prendere il materiale di propaganda per nasconderlo. Per questo ci serviva la macchina di Bona. Sapevamo che si stava preparando un'altra di quelle retate contro gli immigrati, contro gli stranieri, contro gli italiani. E due giorni prima, 2 giorni prima, era stato trovato il corpo del nostro compagno. Vorrei dirlo anche qui dentro, il nome è Andrea. Andrea Sansevi, il nostro compagno trovato morto, sfracellato, sotto gli uffici della polizia di New York. Beh, avevamo paura. No, io non so guidare la macchina, non ho la patente. E non so sparare, non ho mai sparato in colpo di tanto. Beh sì, ce l'avevamo le armi, avevamo già pensato di buttarle lì, era troppo pericoloso. Porto d'armi. Due italiani anarchici, porto d'armi. Scusi, ma lei veramente crede che sia possibile per due italiani anarchici avere un porto d'armi in America. Ah sì, certo, come in qualsiasi paese. Io vorrei proprio sapere che quando vorranno giocare questi infami giochi. Io vorrei proprio sapere se siete diventati padroni della mia vita. Ma che aspettate, che ci impicchiamo? Allora lasciatelo dire chiaro e tondo che io non mi meraviglierei se domani trovassero voi impiccati ad un lampione, non noi. No, questo non lo dovevo dire. Io che cosa credo? Che cosa credo? Io credo che quello che è accaduto in tutto il mondo, quello che hanno fatto per noi intellettuali, lavoranti, tutto questo dimostra, senza ombra di dubbio, che una nuova idea di giustizia si può fare largo nell'animo del genere umano. Una giustizia che fa perno sull'uomo in quanto uomo, perché come ho detto si è fatto per me e Nicola due uomini, quello che un tempo non si sarebbe fatto se non per dei santi, per dei sovrani. No, io non mi vanto, signor procuratore, non mi vanto e non mi compiango, sono in pace con la mia coscienza. Guardi, io non mi sono mai aspettato, né mi aspetto da lei altro che qualche decina di migliaia di volte, un po' di legna, un buon prezzo e una buca, di 1,20 × 2,10 × 2,40. Certo, io ho un bel cercare di volerla considerare cordialmente, ma proprio non riesco a non vedere in lei un piccolo tirannello vanitoso di mente ristretta. No, lei è un settario, è per questo che è violento. Al tempo del nostro arresto i suoi colleghi vedevano rosso dappertutto, lei vedeva più rosso degli altri. Va bene, allora se lei è in pace con la sua coscienza, io con la mia sono in pace. E in pace resterò per sempre. Sì, ho qualcosa da dichiarare. Io non sono un oratore, non ci so fare con le parole. E siccome so, avendomelo detto lui personalmente, che il mio compagno Vanzetti parlerà dopo, io voglio che lo valuti. In tutta la mia vita non ho mai udito, letto, sentito che nella storia ci sia stato qualcosa di più crudele di questo tribunale. Dopo averci perseguitato per 7 anni, i giudici ora ci considerano colpevoli. E tutta questa bella gente schierata oggi qui in quest'Aula. Io so che questa sentenza sarà ricordata come l'espressione dell'esistenza di due classi. La classe degli oppressi e la classe dei ricchi. E che tra l'una e l'altra, noi fraternizziamo con la gente, voi lo opprimete. Noi cerchiamo sempre soltanto di istruire il popolo, voi mettete una barriera tra una nazione, un'altra nazione con loro. Io sono oggi qui su questo banco per essere stato dalla parte dell'oppresso. Voi siete l'oppresso. Voi avete detto che il mio amore per questo paese si misura in dollari e centesimi. Voi. Io potrei capire se qua stessimo a parlare di uno di questi boss dell'industria che stanno pieni di soldi e tutto quanto, dicono ma che grand'uomo che è questo? Ma qui si parla di me. Io per 13 anni ho lavorato e campato in questo paese libero, come mi hanno detto che ero, non ho avuto la soddisfazione di mettere da parte un dollaro falso. Mai. Voi potete dire, passaporto. Io quella volta a Reggio Consolato c'era andato perché volevo un foto di via per tornarmene al paese mio, che non avevo mai i soldi per tornarmene a casa. Io voglio che la gente abbia tutti da campare. Voglio che i nostri figli abbiano una buona istruzione, un buon punto di partenza, bianchi, neri, qualsiasi colore, tutti quelli che lavorano. E non voglio che questa gente dalla classe capitalista che suppone solo a tenere i soldi dentro la banca la mattina si svegliano, prendono questi ragazzi e li sbattono in guerra. Noi non vogliamo questo, non ci sta bene la guerra, non ci sta bene. Noi vogliamo una libertà che è anche la vostra libertà, un solo suolo, una sola patria e un miglior padre. E io potrei anche raccontare tutta la mia vita, ma a che serve? Voi già sapete tutto, come ho detto prima, il mio amico, anzi, il mio compagno, Vanzetti, parlerà dopo che ha maggiore dimestichezza con le parole. Voi state lasciando da parte tutta la gente che è stata al nostro fianco tutti questi anni. Voi fate come se niente fosse stato. E io invece li voglio ringraziare. Voglio ringraziare i lavoratori, intellettuali, gente istruita, è stata un sacco e Vanzetti. Grazie. E ora lascio parlare il mio amico. Ah, c'è un'ultima cosa. Questo tribunale sa tutto di me, della mia vita, e sa che non sono mai stato colpevole, mai, né oggi, né ieri, né per tutta l'eternità. Sì, ho qualcosa da dire. Ho da dire che sono innocente. Tutta la mia vita non ho mai ucciso nessuno. Non ho mai sparato, non ho mai versato sangue umano, ma ho combattuto per eliminare il delitto, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa, e nessun'altra. Ma a voi pare possibile che due o tre persone, poche persone, due o tre persone che in cambio di beni avere condannerebbero la propria madre, vi sembra possibile che siano nel giusto? Quando c'è il mondo intero che dice che sono nel falso. E io so che sono nel falso. Se c'è qualcuno che davvero sa se tutta questa storia qui è vera o no, siamo io e quest'uomo, io e Nicola. Io e Nicola sono 7 anni che siamo in carcere, 7 anni. Quello che in questi 7 anni abbiamo sofferto, non c'è lingua umana che possa dirlo. Eppure siamo qui. Vi guardiamo in faccia, non cambiamo colore. Non proviamo vergogna. Non proviamo paura. Eugenio Debs ha detto più o meno che neanche due cani, neanche due cani che ammazzano le galline, sarebbero stati condannati in base alle prove raccolte contro di noi da un tribunale americano. Io aggiungo che neanche due cani randagi, neanche due cani randagi si sarebbero visti respingere due volte il ricorso, come se lo ha respinto due volte la Corte d'Appello del Massachusetts. Neanche due cani randagi! Questo è Nicola Sacco, un lavoratore fin dall'infanzia. Può darsi, come qualcuno ha detto, che a chiacchierare io sia più capace. Ma tante volte, nell'ascoltare la sua voce vibrare di una fede sublime, nell'ammirare il suo eroismo, nell'osservare il suo sacrificio, tante volte mi sono sentito piccino. Ho dovuto trattenere le lacrime per non piangere vicino a quest'uomo che ora voi chiamate ladro e assassino, che ammazzerete. Ma il nome di Nicola Sacco, il nome di Nicola resterà nella gratitudine, nell'animo del popolo, quando i vostri nomi, le vostre leggi, le vostre istituzioni, il vostro falso Dio non saranno che il ricordo di un passato lontano, no? Un passato nel quale l'uomo era lupo nei confronti dell'uomo. Guardate, signori della Corte, che in questo che dico c'è un paradosso. C'è un paradosso finale. Perché se non fosse stato per questo processo, se non fosse stato soprattutto per questa condanna, assurda e feroce. E siete proprio delle bestie. Sì. Basta. Pronto? Non distaccarmi le faccette desiderate per lei. Te? Faccetta, sì. Te? Comodino? Sì. C'è una fessura sotto al comodino, sì. Ah, sì, c'è. Infilare la busta coi soldi nella fessura sotto al comodino. No, non abbiamo nessuna busta coi soldi. No, mi sbagliate, non abbiamo nessuna busta coi soldi. Il compenso dello spettacolo? No, no, guardi, no, no. No, non abbiamo nessuna busta coi soldi. Per niente, no. Allora, le spiego. Noi stiamo facendo lo spettacolo sul sagrato della parrocchia, della chiesa. A un certo punto esce prima il sindaco, poi il padre, questo. Pronto? Pronto? Non così, cade? Infilare la busta coi soldi del compenso dello spettacolo nella fessura sotto al comodino. Io ho detto, non abbiamo nessuna busta coi soldi. No. Non ce l'abbiamo. No. Io non ho niente. Ma no, Carmine, no. Però questa... Cioè, non ho capito, nel senso, infilare la busta... La busta con i soldi nella fessura sotto al comodino. Ma c'è la fessura? C'è la fessura. E dove? E qua sotto. No, dico come qua? E non lo so. È assurdo. Non lo so, io non... tu non ti trovi una cosa in tasca. E che ci metto dentro? C'è la fessura. Ma questo, scusami, mi hanno detto, in filare la busta. Dai, la busta, poi soldi e la fessura. Non lo so, non lo so. Vabbè, però è... È assurdo. Sì, un po'. Non so, anche con questa... La fessura c'è. No, posso... E c'è, tenimi qua. C'è la fessura. Sì. E fa proprio... So. E ci manca la busta con i soldi. Del complemento, lo spettacolo. Mamma mia. Aspettiamo, ci chiama. Non mi sta addosso. Non ti sto addosso, tu hai capito questa cosa. Capiamo. Non mi guarda la prendere un attimo di terra. Sì, sì, lo vado a prendere, mi chiederà. Però. Se la fa scusa di sotto. Guarda, non vi posso dire la cosa. Ma che stai facendo? Ma che ti sei visto nella tasca? Augusto, sto guardando, dammi una fessura. Ma che stai che adesso che ti sei visto nella tasca? Non sto guardando, c'è questa fessura. Ho capito, ho visto che ti sei visto una cosa nella tasca. Ah, sì, no, questo è... E che è quello? Quello di carte. Che fai vedere? No, che fai vedere? Volevo vedere. Che fai vedere? Mi fai parlare. Posso fare un'altra cosa? Volevo vedere. Posso vedere un'altra cosa? Un attimo, posso vedere? Un'idea, un'idea, la mettiamo dentro. Non mettiamo la mettere dentro! Fammela mettere! Sono dei soldi. Che sono questi soldi, Augusto? Non so. Com'è che c'è la busta? L'assessore. Ah! Era questa busta con i soldi? Sì, mi ha dato questa busta con i soldi come... Ci siamo messi d'accordo all'ultimo gettone di presenza. Gettone? Il telefono non va a gettone. Come presenza dello spettacolo, e tu non mi dici niente, no, no, è chiaro, no, perché mi dovresti dire qualche cosa, ci danno questi soldi, tu giustamente te metti in tasca, mi sembra logico, no, no, mi sembra una cosa, ma mi sono messi in tasca, nel senso, cioè, era una tasca, la tasca è, non ce l'aveva, va bene, allora va bene, no, no, spiego, va bene, ho preso la busta, i soldi, non te lo so, perché ho preso la busta, perché ci sono delle ragioni, ci sono delle ragioni, allora, perché ho preso la busta, perché soldi sono. Allora, Carmine, primo, a campo basso ha perso la ricevuta. Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma ogni volta che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma bene, posso, va bene, va bene, non puoi che se no mi metto a vedere che può passare. Thank you. grazie alla vostra ferocia e attraverso le idee che un tempo l'avrebbero neppure sfiorato. Io nella mia vita ho tagliato con dispiacere molti fiali, provando quasi rimorso. Se ripenso adesso alla mia scura, voglio la bramosia del folle piacere, la folle esultanza di vederlo usare sul collo degli uomini che volano uomini, petto degli uomini che hanno il male annidato in petto, la testa degli uomini che hanno il male annidato in testa, è il nome di Nicola Sacco, il nome di Nicola Sacco resterà nella gratitudine nell'animo del popolo quando i vostri nomi, le vostre leggi, le vostre istituzioni, il vostro falso Dio saranno che ricordo di un passato lontano, un passato nel quale l'uomo era lupo nei confronti dell'uomo. Guardate, e in questo che dico c'è un paradosso finale, che se non fosse stato per questo processo, non fosse stato soprattutto per questa condanna assurda e feroce, io ricordo avremmo probabilmente passato la vita a distribuire volantini, a parlare agli angoli delle strade davanti a persone che ci irridevano, da due attori da strapazzo, saremmo morti senza una pietra che portava il nostro nome, niente, da due falliti. Ora non siamo due falliti. Mai in tutta la nostra vita avremmo potuto sperare di far tanto per la libertà, per la mutua comprensione fra gli uomini, come ora facciamo, per un caso del destino. Le nostre vite, le nostre parole, i nostri atti non valgono niente. Il fatto che ci tolgano la vita, la parola, l'atto, vale tutto. E questo momento supremo è nostro. Questa agonia è il nostro trionfo. Mio carissimo figlio e compagno, ho sognato di voi giorno e notte. Non sapevo se la mia era vita o morte. Volevo tornare e abbracciarvi, te e la tua mamma. Perdonami, bambino mio, per questa morte ingiusta che ti toglie il padre quando sei ancora in così tenera età. Possono bruciare i nostri corpi oggi, non possono distruggere le nostre idee. Esse rimangono per i giovani del futuro, per i giovani come te. Ricorda, Dante mio, la felicità dei giovani, non tenertela tutta per te. Cerca di comprendere con umiltà il prossimo. Aiuta quelli che piangono, aiuta il debole, il perseguitato, l'oppresso. Loro sono i tuoi migliori amici. Il tuo carissimo padre e compagno.